Buonasera Gabriele Vasquez, come va? Ben trovato, ben sintonizzato. Tutto a posto, grazie, buonasera. Oh, mi fa molto piacere. Allora, hanno chiuso Mega Upload. Adesso come farai? Mo' mi tocca andare al cinema. Devi andare al cinema, caro mio. Mo' mi tocca andare in sala, ma tu guarda. Stavi tanto bene a casa, sotto le coperte. E poi venivi qua e facevi, ma io sono stato a Venezia. Ha una bella sala, devo dire, veramente un cinema con un buon impianto. Roba. Avevo appena attaccato il televisore al computer. Ma veramente, ma roba da fare. Hai messo il 5.1 anche. A tutto. Comunque è iniziata la grande guerra del copyright, ma gli Stati Uniti frenano sulla legge antipirati. Dopo la Camera, anche il Senato degli Stati Uniti rinvia l'esame delle nuove norme contro il file sharing. Eppure, secondo esperti e attivisti, la chiusura di Megaupload è il primo passo di una nuova offensiva che potrebbe coprire e colpire anche Google e Facebook. Beh, secondo me sono due faccende completamente diverse. Beh, però sono legate l'una all'altra. Nel momento in cui inizi a fare delle cose, a porre dei freni... No, però diciamo le accuse che vengono mosse a Google e Facebook sono veramente di tutt'altra entità rispetto a quelle di Megaupload. Cioè Megaupload era ufficialmente una cosa illegale, ma proprio non c'era nessuna possibile difesa. Non era Megaupload, non era una cosa illegale, era illegale quello che ci mettevano dentro. No, è diverso, perché per esempio YouTube potrebbe essere lo stesso concetto. Comunque vengono caricati un sacco di clip che vengono da materiale protetto da copyright. Perfetto. Però il punto è che YouTube, diciamo, ottempera alla legge americana, che prevede che se io ti dico, guarda, questo affare è mio, questo contenuto è mio, devi levarlo, loro lo levano. Ma partiamo da due concetti diversi. Mentre Megaupload è un file di storage, si dice così, dove tu ci carichi documenti, filmati tuoi, documenti che devi condividere con il tuo collega o qualunque altra cosa, è nato per quello, cioè è nato come stoccaggio dati, come facevo io per esempio, dove mettevo le trasmissioni in bassa qualità e c'era gente che andava lì, si riscaricava, che era del tutto legale. E poi chiunque poteva metterci qualunque cosa e condividerla. Ma è come dire che come ho scritto oggi sul mio blog, come dire che un uomo viene ucciso a coltellate e tu vai a arrestare tutti quelli che producono coltelli. Allora, questo però è un altro discorso ancora, sono d'accordo con te, perché è sbagliato andare a colpire nella massa, è chiaramente che sbagliato. C'entra? Però il discorso delle aziende, cioè quello che fa Google o YouTube e quello che fanno Megaupload è diverso. Cioè Megaupload, diciamo, Megaupload anche toglieva, nel momento in cui tu gli dicevi togli. No, è proprio quello che, adesso io non posso addentrarmi nelle indagini, ma quello che veniva detto era proprio quello, cioè il motivo che l'ha incastrato è il fatto che non levava e che in seguito alle indagini possono provare che loro erano a conoscenza del fatto che sul sito c'era materiale pirata, che non facevano nulla per levarlo, ma che anzi cavalcavano la cosa, e quindi è fomento della pirateria, e questo li ha incastrati. Diventa una cosa molto al limite tra la libertà del web e la privazione di certi diritti che comunque ha il web. Ma questo è verissimo, però il crimine, quello diciamo che la legge punisce, è quando tu sai che c'è pirateria, non fai nulla per levarlo e anzi la cavalchi e ci lucri. Quello non ti salverà nessuno. No, su per quello dire, no. Su per quello dire no. YouTube, per dire YouTube, quando tu c'è un contenuto coperto da copyright, prende e lo leva, ma non solo, trova anche i sistemi per far sì che i produttori possano mettere i loro video, cioè i canali ufficiali, e che gli utenti possano continuare a guardare. Insomma, lavora a braccetto col sistema, vuol dirla veramente nella maniera più bassa possibile. Megaupload invece andava boom contro. Però il discorso è sempre quello: di chi è la colpa? Di chi costruisce i coltelli o di chi li usa? Dipende da come li usi, dipende da come usi qualunque strumento. Questo sicuramente. Infatti, l'intelligenza di chi, comunque delle major, di chi vuoi tu, di quello che ti pare a te, di quelli che producono film, eccetera, è quello di essere. Di vivere 10 anni indietro alla tecnologia. No, mi trovi d'accordo al 100%. Su questo 10 anni indietro, 15 anni indietro. Io parlavo solamente rispetto alla normativa arcaici, vigente. Sono nonni, capito? Nonni. È chiaro che il vero unico vero passo sarebbe l'alternativa legale. Quello è l'unica possibilità seria. Il resto è applicazione della legge che c'è, che è sbagliata, giusta. Però non so come dire, è quello che ci ritroviamo. Io pure sono contrario, non è che sia a favore del tipo di normativa che c'è ora. Però se tu mi chiedi era fuori legge o no, sì, era fuori legge. Stando alle leggi che abbiamo, era fuori legge. Io non ne sono convinto, perché per esempio molti, ripeto, hanno dei file come me e non possono prenderli. No, infatti, ma questo è sbagliatissimo. Cioè, infatti hanno colpito male. Lui era fuori legge, ma quelli hanno colpito in maniera sbagliatissima, perché hanno... È come se, per dire, è come se in un centro commerciale un negozio fa una cosa illegale e li chiudiamo tutti. Non ha nessun niente. Senso. Esatto, non c'entra niente. Comunque, dopo che Anonymous ha tirato giù tutti, praticamente tutti i siti ufficiali americani, da quello dell'FBI gli è entrato dentro e ha, sì, un casino, ha craccato qualunque cosa, evidentemente sono resi conto che insomma il web deve essere libero. Però io devo dire, su questo non sono d'accordo, cioè io sono a favore, innanzitutto sono contrario in generale come principio alla pirateria, però capisco proprio per quello che dicevi tu, cioè che non è tollerabile questo atteggiamento da chi invece ha i contenuti dalle major, diciamo, è intollerabile. Ma se tu prendi, e capisco, la pirateria, prendi addirittura le case discografiche che nei loro siti non fanno scaricare musica tranne rarissime eccezioni. Ma sono d'accordo, è una cosa da me, è stupido, che pur essendo contro la pirateria io posso capire il peer-to-peer. Io ho un allevamento di galline e non vendo le galline. Esatto, è totalmente senza senso. Però per questo motivo posso capire il peer-to-peer, cioè lo scambio tra pari, come se io e te ci diamo una cosa solo in larga scala. Ma se sono contro le major, sono ancor più contro chi lucra su contenuti non suoi. Cioè, se non voglio dare i soldi a una major perché non rispetto il suo atteggiamento, figuriamoci a quel ciccione con le Rolls Royce, no? Cioè... Ah no, ma certo, ma quello si è fatto le Rolls Royce a prescindere da quello che poi uno ci mette dentro. No, perché sì, ho capito che vuoi dire, però cioè, io non sono anche d'accordo Jones ad andarlo... aveva le Rolls Royce. Certo, io non sono d'accordo ad andarlo a difendere, perché comunque quello comunque faceva un'attività criminale, io non mi sento di difenderlo, mi sento di difendere il peer-to-peer. Ah no, ma io non difendo lo scambio nessuno, tra me ne frego, insomma. Cioè, il peer-to-peer è fuori dal sistema economico. Sono gente che gratuitamente si dà le cose. E quindi è fuori. Lui aveva stabilito un suo sistema economico su che cui è sbagliato, per carità, su cose non sue, capito? È quello che non mi trova d'accordo, ecco. Allora, bene, possiamo iniziare? Via. Oh, beh, no, via te. Via, cioè, via, vai, fuori, vai di tu, qua. Vai tu. Allora, in realtà aspetta. Vai. Dunque. Volevo chiederti, eccoci, una cosa, mi sto perdendo nelle macchinette. Oh, è uscito l'Hobbit, il primo clip di Hobbit, il primo trailer italiano. Penso, italiano, andiamo nello Hobbit specifico. Esatto, adesso lo faccio sentire, aspetta, se riesco, vediamo, e qui ci vuole tecnica. È una cosa bella da vedere questa. Io, che fai, caro Frodo, una volta mi hai chiesto se ti avessi raccontato tutto riguardo alle mie avventure. Ah, questo anche è pre? È il prequel? È pre, esatto. Ti detto la verità, magari ho tralasciato qualcosina. Bilbo Baggins, cerco qualcuno con cui condividere un'avventura. Non posso prendere e andarmene su due piedi. Sono un Baggins? Aspetta, di casa Baggins. Bilbo, permettimi di presentarti. Philip, Kili, Oin, Gloin. Quando uscirà questa cosa qui? Uscirà, allora, in due parti. La prima parte uscirà a Natale prossimo. Quindi hai voglia. Categoria 007. Più o meno, e siamo vicini. Bella botta. E per chi ha visto la serie Sherlock, che ti consiglio un'altra volta, te l'ho consigliato anche l'altra volta, c'è questa serie britannica che si chiama solo Sherlock, su Sherlock Holmes ambientato moderno, bellissima. Ah, l'ho vista, stupendo. Stupendo, Veramente ben fatto. Allora, ben lui fatto. È il protagonista. Devo dire, io sono esatto. Watson è il protagonista dell'Hobbit. È l'Hobbit, quello che fa Watson nella serie, e lui, quello che fa Sherlock, farà la voce del drago, che è il, diciamo, l'antagonista principale di questo film. Quindi ci saranno entrambi loro due. Vabbè, possiamo dar fuoco alle polveri. Allora, è uscito questa settimana, l'avevamo preannunciato settimana scorsa perché noi siamo sempre avanti, ma è uscito proprio in mezzo alla settimana, il 18 Guarda i film, Resident Evil, Mission Impossible. Benvenuti al Nord, è uscito in mezzo alla settimana, noi ne avevamo parlato settimana scorsa, che insomma, non è, secondo me non è all'altezza dell'originale, è un po' sotto, però erano quelle cose che non si potevano non fare. Ha incassato talmente tanto Benvenuti al Sud e prestava talmente tanto il fianco a un seguito che era inevitabile, insomma, in fondo è anche giusto così, sono quelle cose che si fanno in un sistema cinema sano. Quindi sta nelle sale Benvenuti al Nord, sta facendo già sfacelli, io già ho visto i dati di i primi giorni, già andando pesante proprio, e ha fatto in un giorno quello che di solito si fa in un weekend. No, io ho il parziale, quello è quello del weekend scorso. Quindi in un giorno ha fatto quello che si fa in un weekend di solito. Per cui insomma andò benissimo. Sventrerà i maturi che al momento è in testa. Ma questa settimana escono anche altri. Escono ben due film in 3D questa settimana. Ah. Uno terribile e uno incredibilmente bello. Non l'avrei mai detto. Underworld? Non l'avrei mai detto. Ah, io ho seguito la saga di Underworld. Sono quattro film, anche questo io, è il quarto. Li ho visti tutti, sì. E questo qui è il quarto. Mi era piaciuta in maniera, cioè, alcuni sì, alcuni no. Non era che sempre questo è molto bellino. Allora, la saga racconta, per chi non lo sapesse proprio, si dice sagra. La sagra, sagra, giusto? La sagra racconta, per chi non lo sapesse, di una cosa che a dirlo già è da morire dalle risate. È lupi mannari contro vampiri, sostanzialmente. Vabbè, come sempre. Come no, ma quasi mai. Lupi mannari contro vampiri, oh. Tipo, ad esempio. No, tipo gli altri film. Sempre di Underworld. Sì, no, no, dicevo la sagra, tutta quanta, racconta questa cosa. Sì, sì, certo. No, no, come sempre tutti i film. Tutti i film di Underworld. Racconta, insomma, di Luminari contro vampiri. È una cosa che, a dispetto della ridicolaggine che può sembrare il tema, è molto ben fatta. È un fantasy oscuro, sostanzialmente. Molto, molto oscuro. Con sempre protagonista la, io trovo bellissima, Kate Beckinsale, la protagonista. È stupenda. E ha un pregio incredibile. Come è accaduto per la sagra. Di Resident Evil con Mila Jovovich, altra gran donna. Lei veramente si impegna, cioè spesso le attrici sono impegnate in ruoli molto virili, ma non sempre si impegnano. Lei si impegna tantissimo e dà una credibilità incredibile a questi quindi film. È un'attrice impegnata. Esatto, questo fa di lei un'attrice impegnata. Nel film scorso c'era stato un grande prequel, si erano fatte un po' le origini della sagra, raccontando di come era nata questa rivalità tra lupi mannari e vampiri. In questo invece si va un po' avanti, cioè subito all'inizio del film lei rimane come ibernata, ma senza che andiamo rimane nel dettaglio. Incinta. Ibernata. Ah, no. Però tu guardi avanti, perché poi quando si risveglia c'è una sorpresa. Rimane incinta. E c'è una sorpresa quando si sveglia. È stata ingallata. Uno si addormenta e poi. Allora, cose brutte di questo film. Non c'è più Michael Sheen, che è un attore bravissimo, che stava anche negli altri, che secondo me era un grande, però non c'è perché è morto, quindi non c'è. È morto il personaggio, chiaramente non lui. Cose belle, un 3D fantastico. Cioè, ma veramente? Ah, ma cioè, non un 3D che tu dici e ti dici: ah, ecco, oh, il 3D così si fa. Cioè, come si fa il 3D? Si fa innanzitutto riprese dal vero in 3D, non fatto in post-produzione, riprese dal vero. Uno. Due. Pensando le inquadrature con una prospettiva, cioè non è che tu inquadri un soggetto e dietro c'è lo sfondo lontano sfocato che uno non percepisce la profondità, ma organizzando le inquadrature in modo che ci siano tanti oggetti, insomma che ci sia un'idea di profondità che vada oltre il semplice fatto che stai usando una camera 3D. Terzo, con un'idea, a dirigere sono due svedesi che avevano fatto Shelter, che era un film non bellissimo, però loro sono due ragazzetti svedesi molto nerd che si sono divertiti un sacco probabilmente, perché è un film che non si prende sul serio, che fa questo racconto un po' nel futuro. L'avevi visto Daybreakers, quel film in cui i vampiri hanno creato una società dei vampiri, in cui, cioè, sono multinazionali in giacca e cravatta? Mi sembra di sì. Mi questo sembra qui, che c'è uno che si ribella. Esatto, il ribellante un po' riprende quelle atmosfere. Cioè, in questo futuro recente, è stato 12 anni nel futuro, in questo futuro vampiri e lupi mannari che si davano alla caccia nell'oscurità sono alla luce del sole, tutti quanti lo sanno. E quelli normali? Rosicano, però è così. C'è poco da fare. Li mordono? Ma non troppo, perché se la fanno tra di loro. E soprattutto molti, visto che alcuni sembrano proprio umani, sono inseriti in luoghi di potere, capito? Per cui ci sono multinazionali che sono gestiti dai lupi mannari, ma nessuno lo sa, perché poi sono anche normali, possono essere normali allora a loro volta. Ah, quindi escono di giorno. Esatto, vampiri escono di giorno. Poi ci sono quelli tradizionalisti, quelli che noi siamo la vera setta dei vampiri, che stanno nelle fogne, come si rispetta, come tutta la gente seria, e si danno mazzate nelle fogne. Quindi quello che succede sostanzialmente è che, da che solitamente il vampiro è l'emblema di quello per bene, cioè quello in giacca e cravatta anche un po' bastardo, e invece il lupo mannaro è la classe proletaria che si arrabbia, in questo accade il contrario, cioè un rovesciamento di fronte. Adesso è inutile addentrarsi nella tama. Il proletariato ha preso il potere. Esatto, la proletariato al governo. La classe operaia. Esatto. Oh, insomma, vedi, più concorrenza su gas e servizi pubblici, quindi se dobbiamo ammazzarci col gas risparmieremo. E, insomma, detto probabilmente il film è anche più interessante di come l'ho descritto, nel senso che è veramente una cosa divertente, fatto con un bel 3D, con una bella gnocca, insomma, una cosa bella virile che tutto quello che invece non è L'Ora Nera, l'altro film in 3D. L'Ora Nera? L'Ora Nera. Allora, L'Ora Nera è una cosa che è più interessante, quello che c'è dietro, che il film. Cioè, L'Ora Nera è forse una... no, la prima no, però diciamo la più importante produzione d'azione, quindi diciamo blockbuster, quelli film di grande impatto, grandi effetti speciali, grande azione, che Stati Uniti e Russia abbiano mai fatto insieme. Una volta le vere produzioni blockbuster Stati Uniti erano contro i russi, cioè erano gli americani contro i russi. Adesso fanno i film a braccetto, che è l'emblema del cambiamento della geopolitica mondiale. Caro mio. Esatto, è finita. A presiedere il tutto c'è Timur Bekmambetov, che era il regista di Wanted, insomma un regista molto importante in Russia, che ha lavorato in America e che fa da ponte. La storia è la classica storia di fantascienza. Allora, ci sono questi americani che vanno in Russia per affari, ragazzetti, però per affari legati a internet, vanno in Russia. E proprio quando sono là, arriva l'invasione aliena. Allora, l'invasione aliena è di quelle invasioni... veniamo e vi facciamo fuori tutti senza fare domande, proprio senza dire né se né ma, senza attendere. Arriviamo e vi facciamo fuori tutti, così. Questi sono alieni invisibili, poi si spiegherà nel film perché, c'è una storia dei campi magnetici che non sto qui, non entro nel dettaglio dei campi magnetici. Ah, quello, visto i trailer che c'hanno quelle cose. Esatto, e che proprio li polverizzano agli umani. Loro, i protagonisti, si nascondono in una specie di bunker, quindi rimangono nascosti 4 giorni e si salvano. Poi escono e c'è Mosca deserta. Wow, il deserto. Beh, con a me questi... queste cose possono... questo è figo, questa è la parte figa, diciamo. Nessuno... con questi alieni invisibili, che poi sono, appunto, sono invisibili, che però si aggirano, e loro devono sopravvivere. E questo è l'impianto della trama. Il brutto è, vabbè, a parte il 3D fa ride, vabbè. Però il brutto è che è un film scritto ridicolo. Cioè, l'unico vero modo di godersi questo film è andare con spirito goliardico, parlare ad alta voce durante il film e tagliarsi alla, come dire, alle spalle del film. È l'unica possibile alternativa. Perché per il resto è un film che non riesce a fare un lavoro serio. Insomma, non riesce a prendersi sul serio ed è quanto di più banale si possa fare in materia. A dispetto poi, insomma, dei mezzi spesi e di tutta l'idea di America, Russia. Perché poi chiaramente questi americani lì nella Mosca deserta troveranno da alcuni che sono sopravvissuti, alcuni guerrafondai russi che sono sopravvissuti e che gli alieni gli sparano come... Oh, vedi, tradizione. Abbiamo sempre il nostro Giovanni, quello che ti sostituirà a breve. Ormai a breve. È imminente. Un nuovo programma su Rete 3 per l'intera squadra di Boris. L'era legale di Enrico... Caria. Straordinario al box office, spero di non aver invaso troppo il campo. Psycho, in arrivo il telefilm prequel. Tu lo sapevi? Spoiler, il prologo del Cavaliere Oscuro, il ritorno in esclusiva su Superga Cinema. Spia contro spia, questo che è? Questo non lo sapevo. Spia contro spia. Sì, vediamo che è, però. Aspettiamo a dire che non lo sapevo. Una spia non basta. Film con chi? È un film con Tom Hardy. Tom Hardy è uno degli attori più importanti che ci sono in questo momento. Sta fatto un sacco di film. Diciamo, era il fratello violento di Warrior. Chris sarà Bane in Batman. E ha fatto anche una parte più o meno piccola. Però tu questo non lo sapevi. Due grandi attori, amici e colleghi. Lavorano entrambi per la CIA. Per Reese Witherspoon se le danno di santa ragione. Pensavi di cogliermi in fallo. Manoso. Il trailer che sta spopolando il web, American Reunion. Questa non la sapevi. Vediamo. Non leggere. La riunione di American Pie. No, devo dire al volo non c'è. Ammetto le mie deficienze, io le ammetto. Poi Twitter. Resident Evil. Il Resident trailer in anteprima mondiale su Twitter. Visto questo. Questo visto. ACAB. Domani, lunedì. C'è 6 minuti, poi ci sono 6 minuti online del film. Che io apposta non ho guardato. Sapevo che c'erano, ma apposta non ho guardato. Bravo Giovanni. Questo è naturalmente da Skype. Ringraziamo il nostro terzo ad onorem componente che ci ha ritrovato sulla nuova frequenza. Noi c'eravamo andati apposta, c'eravamo nascosti apposta, ma ci ha ritrovato. Tu non hai fatto mandare. Guarda, andiamo nella radio che è meglio. Però non lo dire in giro. Vabbè, andiamo avanti ancora a cinema. Allora, gli altri film che escono questa settimana. Oh, questa settimana esce un film che puzza di Oscar. È in odor di Oscar. Ah, che quelle cose pallosissime. Ma guarda, sei un po' sì. Allora, è un film che a me, devo dire, non è piaciuto tanto. Però sono su una persona, come dire, obiettiva. E vi dico che invece è un film che probabilmente vi piacerà. Nel senso che solitamente questi film piacciono al grande pubblico. Senza voler insultare nessuno. Però sono film che tendono a piacere. Si chiama The Help. Ed è un film che fa una cosa tipica americana. Cioè, gli americani, accanto al racconto della loro storia, quando devono ripercorrere eventi storici della loro nazione, tendono non tanto a raccontarti i fatti, cioè la storia per come è andata, o magari a raccontare di retroscena, ma a fare un racconto sentimentale, cioè a prendere magari una piccola storia che si inserisce nel grande mutamento, nel grande evento, una piccola storia di alcune persone non note, e mostrare come quel grande evento li ha cambiati, cioè cosa ha significato per loro, e quindi avvicinandosi alle persone fare appunto un racconto di come sentimentalmente è andata la cosa. The Help in particolare parla della conquista dei diritti civili dei neri e di come questa una scrittrice per la prima volta pubblicò un libro con i racconti delle governanti di colore, che ed era la prima volta che, insomma, che si vedeva il punto di vista di The Help, cioè l'aiuto in casa, le persone che aiutavano in casa. Chiaramente erano racconti di queste governanti del Mississippi che erano trattate malissimo. Il motivo per cui a me questo film non è piaciuto è perché è veramente ruffiano, cioè fa di tutto per conquistarsi la benevolenza del pubblico senza perseguire nessuna idea in particolare, cioè ci dice tutto quello che già sappiamo e tutto quello in cui ci piace credere, anche se non è vero. Cioè fa un racconto in cui i buoni sono buonissimi, i cattivi sono cattivissimi, e sono da due parti ben separate, sono ben identificabili e non c'è complessità, quando sappiamo che la realtà delle cose invece è molto complessa, che non tutti gli afroamericani sono buoni, non tutti i bianchi sono cattivi, e alle volte chi è vessato non ha tutte le ragioni, insomma non è sempre così. Sì, sappiamo che è morta Etta James, ne ha parlato prima il nostro Tamagnini. Grave perdita, gravissima perdita, mannaggia. Un pezzo per ricordarla, un pezzo che l'ha già messo Tamagni, adesso vedo se riesco a trovarlo io qui nei miei. Prego, vai avanti. Era, correggimi se sbaglio, che c'è un ponte cinematografico, era quella che cantava At Last. Sì, mi sembra che cantava quella che sta in Wall-E della Pixar. Mi sembra di sì. Attenzione, grande ponte cinematografico. E, insomma, The Help alla fine non ha convinto per nulla. È veramente un film che ci fa sentire meglio, ma senza fare una vera riflessione, senza avere nessun tipo di coraggio. Però è molto sostenuto da alcune attrici, anzi un cast quasi tutto femminile, da alcune attrici molto bravi. Ci sta Jessica Chastain, che è la rossa di The Tree of Life, c'è Emma Stone, molto brava, e soprattutto la governante di colore principale, la protagonista, è Viola Davis, che non è molto nota, ma che è una delle più nominate quando si parla di chi sarà in corsa per gli Oscar. Viola Davis è molto considerata, quindi potrebbe poi insomma spesso capitano queste cose a sorpresa. E questo cos'è? Io siete nati lo so per essere governati. Alla fine ognuno sarà solo con se stesso. Mamma mia. Che dobbiamo fare? Stare pronti. La nostra idea era di mettere insieme un gruppo di persone eccezionali. E quando ne avremmo avuto bisogno, loro avrebbero combattuto quelle battaglie per noi insostenibili. Sono tutti, Mamma. Signori, preparatevi a dare il massimo. Senza offesa, ma io non amo il gioco di squadra. Sei grosso con l'armatura. Senza quella che cosa sei? Un genio, miliardario, playboy, filantropo. Quelli che fanno i trailer di questi film sono dei geni. Ma danno un premio sì, ai migliori trailer. C'è anche in Italia il Trailers Film Festival. Capisco che la vendicheremo. Mamma mia. Ma soprattutto poi magari non è questo il caso, perché questo Satana, io ci punto molto sul film dei Vendicatori, ma spesso i trailer sono senza scherzare migliori dei film, concordo pienamente. Cioè, riassumono tutte le parti interessanti, divertenti, le gag divertenti, e poi il film è un disastro. Beh, The Avenger comunque si no, è The un Avenger film attesissimo, no, poi è ben diretto, ci sta ma come faccio a dimenticare, non mi viene il nome. Comunque il regista è fortissimo, porca miseria, guarda. Giovanni lo sa. Ho poco prima che lo scriva. Vabbè, ti perdoniamo, ma c'è Samuel L. Jackson, miseria, il creatore di Buffy. Porca miseria, guarda che non mi viene. Vergogna. No, terribile. Cioè, un uomo funestato dalla memoria, capito? Io potrei essere un grande. Anche io. Potrei già essere ai massimi vertici di questa professione se non fosse per questa memoria. Invece esce invece un momento, un attimo di serietà, un momento di insomma, Joss Whedon, come faccio? L'ha scritto lui, lo so. Vabbè, dicevo, un momento invece serio, il cinema serio, roba impegnata. Ecco. Cinema, esatto, un cinema impegnato. Sette opere di misericordia. È un film. No, non ride. No, non c'è, no. Ridevo per un'altra cosa a cui pensavo, cosa calma, che mi è capitata oggi. Calma. Sette opere di misericordia. È un film indipendentissimo, italiano, con Roberto Ilizca, che nonostante il nome possa non suonare, in realtà è noto. Ha fatto Aldo Moro in Buongiorno Notte, cioè sul ruolo più famoso. È un film che racconta un tema molto abusato dai nostri film indipendenti, cioè quello della presenza e il ruolo che possono avere gli immigrati o gli italiani di seconda generazione nella nostra società. Ma devo dire, io solitamente non amo questo genere di film perché tendono a essere ripetitivi, banali e a fallire sempre i loro obiettivi, ma questo non è il caso. Sette opere di misericordia è un film che vuole essere alto, cioè vuole compiere a partire da una storia bassa, compiere un ragionamento molto alto, e in un certo senso ci riesce, magari non arriva a raggiungere tutti i suoi obiettivi, ma comunque è un film molto valevole, un film che vuole essere difficile sicuramente, perché è un film molto poco parlato, con molti silenzi, ma che trova più di una maniera di compensare i suoi silenzi, trova un linguaggio per immagini, delle idee e una chiave per interpretare il rapporto tra questa immigrata e questa persona anziana italiana, che non è il semplice rapporto chiaramente immigrato badante, ma anzi c'è in mezzo la criminalità, c'è in mezzo la malavita, insomma ci sono molte cose, e di metterlo sullo sfondo chiaramente del, come dice il titolo, delle sette opere di misericordia, quindi dargli come una prospettiva cristologica, senza dover essere per forza religioso, è solo una cornice quella dell'interpretazione, anzi come dice, che è anche in certi momenti dissacrante perché non segue di certo un andamento biblico, anzi che pone più di un problema, insomma è veramente un film che, se siete in vena di questa, se vi piacciono queste cose un pochino più audaci della media, secondo me vale la pena. Oh, qui scrivono, ma non si dice saga? Sagra non si usa per le feste di paese? Ma forse mi sbaglio? No, non ti sbagli, fino al 2010 era così. Esatto, poi c'è stato il pacchetto... pacchetto dell'R. No. E si dice sagra. Esatto, sono state aggiunte ad alcune parole delle R, sagra era da però questo. Puoi dire tutte e due i modi. Fino al 2014, poi la mia cosa è solo sagra. Poi dopo c'è l'altro pacchetto. Il mille proroghe. Ma invece ultimo film. Aspetta, questo vai. Cos'è? Vediamo un po', vediamo se becchi questo. Controllo comunicazione. Siamo vivi. Ah, l'ho visto, l'ho visto. L'hai visto? Ah, l'ho visto. Perché non mi hai chiamato? Come non ti ho chiamato? Ma non mi hai chiamato. Che cavolo è quello? Invece sì. Allora, cerca la mail. Concludere. Ethan, che è successo al Cremlino? Era una trappola. I russi hanno classificato un atto di guerra non dichiarato. E la colpa è ricaduta su di te e la tua squadra. Il presidente ha implementato il protocollo fantasma. L'intera unità IMF è stata esautorata. Perciò che succede ora? La tua missione, se accetterai di compierla, il segretario è morto. Non ne parliamo perché non m'hai chiamato a vederlo? Ho ricostruito, non t'ho chiamato perché avevi già iniziato a trasmettere ed era alle 6. Aiuti o vie di fuga. Chiunque sia legato però quest'uomo per correttezza in effetti. Ho visto Shame, scrive Paolo. Tu che ne pensi? A me non è piaciuto. Fotografia a parte. Guarda, è un film che anche a me nell'immediato non mi è piaciuto. Cioè, uscito dalla sala ero un po' deluso, ma devo dire che col tempo cresce. Cioè, io ci ripenso sempre più spesso a quel film. Ed è un a distanza di ormai io qualche, forse anche più di un mese che l'ho visto, mi rimane tantissimo quell'idea di indagine sul corpo di lui, quel corpo assurdo che c'ha lui e il modo di portarlo in giro. Per esempio, ricorderai quella scena in cui lui segue la corsa di lato, molto, a me mi aveva colpito molto, insomma, un film che ti rimane dentro, che lavora anche dopo, secondo me, insomma. Poi lui forte, mazza, lui Fassbender veramente forte. Va bene, andiamo avanti, prego. Andiamo, dicevo, l'ultimo film di questa settimana, l'ultimo film, insomma, tu non vuoi sapere com'è il 3, adesso hai mandato il 3, diciamo, di Mission Impossible 4, hai mandato. Vuoi sapere, sì, già l'abbiamo detto. Delle piccole svolte. Beh, dai, un'infarinatura. Così. Sì. Allora, la cosa fica di questo film che lo rende non è 3D. Non è 3D. La cosa che fica di questo film che lo rende fico e che è un film d'azione serio, nel senso che è fatto con tutti i crismi del film d'azione, non è che c'è, ma è fatto da uno che nella vita fa cartoni animati, cioè Brad Bird, che è quello che ha fatto Gli Incredibili, ha fatto Ratatouille, è stato uno dei principali artefici del, a livello di disegno proprio, dei Simpson, cioè uno che ha dato la forma ai cartoni degli ultimi 20 anni. E questo è il suo primo film con le persone, con carne e ossa. Ed è veramente interessante questa cosa, perché è molto... Una bella scommessa. Porca miseria. E ogni tanto, sarà che tu sai che lui ha fatto i cartoni, però ogni tanto lo noti, che è qualcuno che si è formato con i cartoni animati, anche se ogni tanto entra dentro Ratatouille. Entra Topolino. Sì, ma battuta di Simpson. Anche se è serio, tu capisci che quel modo di procedere molto svelto, perché poi i cartoni hanno un gran ritmo, solitamente, perché devono tenere destra l'attenzione dei bambini, quindi insomma, per cui anche questo film è molto ritmato. Il finale è lo stesso finale di Monsters & Co., che è un altro cartone Pixar, per chi l'ha visto, e insomma, c'ha un sacco di trovate, secondo me è veramente una cosa bella, diversa dagli altri film della saga, che ci voleva. Mi è piaciuto molto. Vabbè, dicevi ultimo film? Ultimo film è E ora dove andiamo? Di Nadine Labaki. Nadine Labaki è quella cineasta, autrice bellissima, madonna veramente bellissima, di origine libanese, che avevamo già visto con Caramel, mi sembra 2 o 3 anni fa. Caramel era un film, diciamo, categoria finto almodovariano, nel senso che andava un po' a cercare quelle atmosfere di Almodovar, quel culto per l'universo femminile, i colori caldi, e un'idea molto spinta di sentimentalismo e di melò. Mentre invece questo E ora dove andiamo racconta una storia molto semplice: in un paesino medio orientale immaginario, gli abitanti del paese si dividono in persone di religione islamica e persone di religione cristiana. Sono in guerra tra di loro, ma lo sono solo gli uomini alla fine. Le donne, che cercano in tutti i modi di prendere il potere, invece si intuisce dal film che potrebbero gestire la cosa con molto più pacifismo, insomma, che sono sostanzialmente migliori. E in questo essere migliori sta la pecca più grande del film, cioè il fatto che è un film che assolve troppo l'autrice stessa. Cioè, non solo lei si mette nel film, si riprende in maniera maniacale, nel senso, per lei è molto bella, ma si riprende anche proprio per sottolineare questa sua bellezza, si mette accanto tutte attrici brutte, e quando arrivano dei personaggi che dovrebbero essere belli, tipo a un certo punto arrivano delle spogliarelliste, non sono delle grandi spogliarelliste, se ne hanno viste di migliori, lei è comunque la più bella in scena. Bello. Questo unito al fatto che poi enfatizza molto il mondo femminile, insomma, veramente sembra un peana di lei, del suo sesso e di tutto quanto. E per quanto anche Almodovar, a cui lei fa riferimento esplicito, l'inizio di E ora dove andiamo è uguale all'inizio di Volver, mentre Almodovar lo fa poi con un afflato, con un'abilità narrativa, con un intellettualismo che è di altro livello, lei non ha questo a farsi forza e rimane solamente una cosa autoincensatoria. Io l'ho mal sopportata, e secondo me anche un po' rispetto a Caramel, che invece era un pochino meglio, ha meno ritmo anche. Un'altra cosa molto bella di Mission Impossible è che a volte i trucchetti, gli aggeggi in arte e i gadgets si inceppano, e aumentando la suspense in maniera molto interessante. Sì, è vero, ha una visione della tecnologia. Questo non l'avevi detto. Ma tu mi hai detto un'infarinatura. No, io mi sono tenuto le cose. Perché... No, comunque è vero, ha un'idea della tecnologia molto realistica, cioè dove non tutto funziona. Bene, ci parli un po' di sé, Mr. Parker. Non c'è molto da dire. Un prequel pure questo. No, questo è... Facciamo finta che non l'abbiamo mai fatti. Cioè, come se fosse il primo, capito? Che vuol dire? Cioè, ricominciamo parliamo da capo. Parliamo di Spider-Man. Sì, parliamo di Spider-Man. Questo è un ricominciamo da capo. Vai, ricominciamo. Il primo film di Spider-Man. Ah, che lui viene morso dalla... Sì, sì, sì. Si ricomincia totalmente da capo. Ma cosa, con lo stesso attore, no? No, altro attore. Ma sono pazzi. Secondo me è una cosa assurda. Magari poi il film viene bene, per carità, però concettualmente è assurdo. Cosa sei veramente? Non ci posso credere. Sì, facciamo finta che non è successo niente. Non lo so. Vabbè. L'altro Spider-Man, poi, se non sbaglio, è meno di 10 anni fa. Insomma, questo veramente... è il giorno che cambierà il corso della guerra. Ah, Underworld, bello. Gli scienziati potrebbero finalmente aver trovato l'esemplare che ci porterà alla cura. Abbattetela! Subito! Che abbatti? Manda abbatti! Troppo veloce! Mi sono stata tenuta prigioniera dagli umani. Ora vampiri e Icari sono la loro preda. Se vogliamo sopravvivere come specie, dobbiamo resistere agli umani. Bello tirato, mappa o mappa. Molto, molto latex in Underworld. Molto latex nero. Comunque, diciamo, abbiamo dimenticato di dire che Mission Impossible 4 esce settimana prossima, quindi insomma siamo agli sgoccioli. Sceme la storia di Fassbinder che si fa tutto, cioè, a tutte quelle che incontra. È vero. Cioè, sceme la storia di. Cioè, in questo film il protagonista è un sesso dipendente, un malato di sesso. E quindi sì, si fa tutte quelle che incontra. E la cosa, i giornali scandalistici si sono molto divertiti col fatto che lui, Fassbender, ha un membro maschile pronunciato. Ma che ne sanno? Si vede. Vabbè, la novata, qualsiasi cosa. No, si vede. Il cioè, sequel dei soliti idioti è già in cantiere. Becca. La sapevi questa? Non volevo dirla. Pensavo di tenerla per più avanti. Vabbè, ce ne possiamo andare. Tu non te ne andare come l'altra volta che mi lasci qui io col stampellato. Sì, perché sei un po' cornuto. No, tipo. L'altra volta avevo degli impegni pressanti. Cioè, ma hai accannato qui. Ma tu mi hai detto, tu vai pure. No. Grazie Giovanni, prima ringrazio lui. Vabbè. Grazie Gabriele, noi ci sentiamo venerdì prossimo, sempre ammesso in un concesso che vada tutto bene. Per carità. Perché sai com'è? Vai porre limiti. Ah, per carità. Intanto questa settimana sono andati bene i podcast, eh? Questa settimana abbiamo, cioè, col fatto che la settimana scorsa abbiamo ricominciato per la prima volta, c'è stato un super download. C'era una richiesta per questi podcast. Ma il link che ho io sul mio blog è sempre buono. Io ho ottenuto i podcast. Diciamo, i podcast sono la registrazione delle trasmissioni, sostanzialmente. Si possono trovare dal blog di Faster. Chi c'aveva il vecchio link è sempre quello. Valido. Su Facebook, però, ho dovuto fare un nuovo gruppo perché non potevo cambiare il titolo al vecchio gruppo. Che conteneva il nome dell'altra radio, non lo potevo cambiare, quindi ho dovuto fare un altro. C'è poco da fare. Esatto. Per il resto, stanno pure su iTunes, stanno ovunque. Cellulite e celluloide, basta cercare su Google. Grazie, Vasquez. Noi ci salutiamo tra qualche minuto perché arriva Etta James. Io scappo. Sì.